Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, buonasera a tutti, bentrovati a Rock Wave, trasmissione del mercoledì. E come sempre al mercoledì cosa facciamo? Facciamo live, ringraziamo il Cinema Volta. Ciao. Brescia, Milano e dintorni praticamente. E Verona. E Verona, avete fatto buon viaggio? Assolutamente sì. No, ma va bene. Assolutamente sì. No, come mai avete trovato traffico? Sì, c'era un sacco di traffico. Tutta la gente che va in vacanza proprio. Sì, loro sì. Loro sì. Beh, anche voi forse, no? Forse. Esatto. Stasera non è vacanza, ma è bello e suonare. Sì, no, sì. C'è un creme. Benissimo, Cinema Volta, però qui stasera un concerto assolutamente live, sono le 14 minuti prima, abbiamo perso qualche minuto per organizzare le cose, Michele Tosoni in regia che chiuderà tutto qua. Che ringraziamo già anticipatamente. Ciao Michele. Lo ringraziamo anticipatamente. E parliamo del vostro progetto Cinema Volta. Intanto ci presentiamo musicista per musicista. Allora, io sono Max e sto parlando forse un po' troppo vicino al microfono perché lo sento un po' distorto, ma vabbè. Sono Max, canto e suono la chitarra. Alla mia destra c'è... Ciao, io sono Francesco e suono la tromba. Con una bella tromba. Alberto. Dai. Ciao, io invece sono Stefano. E suona il basso, invece sono Andrea Ponzoni, suono le tastiere e sono anche detto il Lorca a volte, solo a Padova però. Ah, solo a Padova? E io sono Alberto e suono la batteria e sono de Verona. Perché è lontano, lui è lontano da non Verona. Ha il microfono. Ok, da Verona, in ogni caso è lontano per modo di dire, è un po' più distante, chiaramente siamo in 5 praticamente, però è la stanza di una radio. In 6 siamo, c'è anche il fotografo, c'è anche dobbiamo il nostro dire. Fotografo ufficiale, Mattia ufficiale. Brunelli, detto anche Malattia Brunelli. Per l'occasione non solo fotografo ma anche manager dei Cinema Volta e procacciatore, benissimo, di bisogni. Allora, una cosa fondamentale, non è il primo disco il vostro numero? Quinto disco, una cosa molto interessante, un quinto disco. Come è nata l'idea di portare avanti il progetto Cinema Volta? Portarlo avanti effettivamente... Dimmi, no. Com'è nata l'idea del progetto? Di portarlo avanti è stata... No, fa ridere perché sembra che già parte male. Parte bene. No, nel senso che effettivamente è dura, quindi questa era giusta la domanda. No, allora, il progetto è nato nel 98 su un divanetto di un locale che si chiamava Cinema, ed eravamo io e Stefano, che è al basso ed è là. Sì, ha il cappellino stasera, benissimo. Sì, e avevamo pensato... Tengo la distanza dal microfono. Sì, ok. Avevamo pensato di iniziare a collaborare, perché già io e lui collaboravamo in un progetto molto... Ma no, c'è tempo. Sì, abbiamo tempo. Mi dicono di stringere, ma io sono promesso. No, abbiamo tempo. Ah, dobbiamo parlare, dobbiamo cercare di conoscere il Cinema Volta. Allora, erano le 22:15 e Stefano si avvicinò alla macchina e... No, sto scherzando, ma non la capita nessuno, mi fa molto piacere. Dimmi. C'è qualcosa che... Dimmi. Dai. Ok. Allora, no, io e Stefano abbiamo deciso di creare il Cinema Volta nel lontano 1998 e poi abbiamo fatto un sacco di strada e abbiamo trovato finalmente il nostro equilibrio trovando i musicisti che ora mi accompagnano in questo progetto dell'amore. Perfetto, io non sento più niente ma va tutto bene così, mi piace. No, adesso senti un'altra volta. Ok, allora, è cominciato questo progetto in quella data là. Esattamente, nel 98 e come siamo arrivati nel 2011, facendo tanta avete fatto strada. Ben 5 dischi, sì. Esatto. Mica una cosa semplice. Siamo già passati a trovarti. E siamo anche venuti qui e stiamo ancora aspettando le registrazioni di quella volta. Mi ricordo che avevate detto, ve la mando. E che anno era, ti ricordi? Era il 2006. Perfetto, abbiamo sempre tempo da mandarvela. Sì. Ah, infatti io sono sempre lì che guardo la posta elettronica. Innanzitutto avrete quelle di adesso. Innanzitutto non c'era la posta elettronica. Esatto. Era appena caduto il muro. Esatto. E si vendevano i dischi. E soprattutto. E USB non esisteva. Come qua non esisteva cosa? L'USB. Ah, l'USB lo so. Questo è un altro par di maniche. Anche il Galassia. Però. Bene o male, se siete ritornati qua vuol dire che avete tanta altra voglia di suonare. Sì, no, che abbiamo un ufficio stampa molto valido che ci trova situazioni come queste. Ma situazioni positive che ringraziamo. Situazioni come queste. Ah, come queste. ma sicuramente sono positivo, perché suonare, poi quando cominciamo a suonare si dimentica tutto, sì, quanto, sì, e sì, si va avanti. In ogni caso, questo nuovo progetto, questo nuovo disco, l'idea come è partita? L'idea di fare questo quinto album da soli, senza casa discografica? Ma in realtà una casa discografica c'è, cioè, però è un po' ancorata. Sì, insomma. No, è cioè, diciamo che allora noi siamo passati da case discografiche più grosse. Esattamente, voglio intendere poi quello la io. Crisi e poi il fatto che non ci volesse nessuno ci ha spinto. Ma non a penso, fare... ma non è proprio questo il discorso. No, no, no, ovviamente sto scherzando. Quindi avete no, però abbiamo di fare... pensato di allora tutto è nato sul furgone perché noi viviamo praticamente sul furgone che avete parcheggiato qui. Che abbiamo parcheggiato qui il... direttamente, siamo usciti da lì. Esattamente. Già pronti, insomma, già abbigliati da musicisti. E è nato appunto sul furgone l'idea di fare un disco così, un po' funky, unendo un po' le sonorità che ci interessano tanto e unendo anche la canzone italiana come la intendiamo noi. Esattamente, sì. E quindi durante questi viaggi abbiamo iniziato a dire perché non farlo e a chi potrebbe interessare questo disco? A nessuno dei discografici italiani. E per questo motivo abbiamo detto no, dobbiamo trovare un'etichetta e ci siamo, abbiamo trovato un'etichetta che è il Silent Groove di Verona e col quale tra l'altro abbiamo fatto, con i quali, perché sono delle persone molto intelligenti, avevamo fatto un EP precedentemente che si intitolava Guerra Fredda, che è stato un disco che ci è piaciuto tanto fare, col quale siamo andati in Francia e quindi è stata un'esperienza molto importante. Abbiamo detto perché non continuare con 13 e portare il funk e la musica italiana con quell'etichetta, e poi, quindi è quello che abbiamo poi fatto. Una bella copertina con Dante Alighieri. Esatto, perché Dante è la lingua italiana. Esattamente, quindi la lingua italiana rapportata all'evoluzione musicale, non dico alla pseudo elettronica, ma qualcosa di elettronica c'è. Sì, c'è qualcosa di elettronico, come abbiamo discusso prima. Un po' di funky. C'è tanto po' di funky. E c'è molta pop, musica pop, anche musica pop di un certo livello sempre. Ma il livello è altissimo, questo lo sappiamo. Esattamente. Per sentire il livello altissimo sentiamo il pezzo che avete scelto come scaletta, il primo pezzo della scaletta. E la cosa interessante è che non sappiamo quale sarà, ma è questa la cosa... Ma è quello di livello. Esatto, è comunque un pezzo di livello perché tutti sono a livello. Di livello. Adesso lo sentiamo e poi ne parliamo, va bene? Perfetto. Ok. Nota, asfalto e carne cruda, piede che fonda nudo, la scarpa di gomma cola. Giro in bici per Roma, tu sei al mare in Spagna. Detto è meglio che vada, io non ho detto nada. Agosto, detesto agosto. Forse proverò con del sesso telefonico mentre dalla spiaggia urla vento, sabbia e sangria. Se sei ancora mia, rispondi a quel telefono piano, tarifario fatto apposta per noi due. Gelati della lista, resiste il cuore di panna, sembra cambiato ma resta l'unica mia certezza. A agosto, detesto agosto. Forse proverò con del sesso telefonico mentre dalla spiaggia urla vento, sabbia e sangria. Se sei ancora mia, rispondi a quel telefono piano, tarifario fatto apposta per noi due. Forse proverò con del sesso telefonico mentre dalla spiaggia urla vento, sabbia e sangria. Se sei ancora mia, rispondi a quel telefono piano, tarifario fatto apposta per noi due. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, parliamo allora di questo pezzo, Detesto Agosto. Un detestare agosto per il caldo o per altri motivi, caro nostro cantante? Perché ad agosto non c'è il calcio. Ah, per quello. E noi siamo contro. Siete contro il calcio? No, siamo contro l'assenza di calcio. No, non lo so. No, ma il calcio è lo stesso, ci sono i preliminari di Coppa dei Campioni. E infatti, però noi siamo contro i preliminari. Ecco. Allora, povero Udinese, allora siete contro l'Udinese. Esattamente. Dimmi, il nostro batterista vuole dire qualcosa. Dimmi che lo dico io. Io mi dissocio. Si è dissociato il battista. E sono Alberto. Alberto. Parliamo come l'avete creato questo pezzo, musicalmente, come l'avete trasformato, come l'avete creato. Era agosto. E non c'era il caldo. Faceva molto caldo. Non ero a Roma, però ho detto chissà com'è essere a Roma in giro in bici, certo, e avere una donna che è in Spagna che ti chiama, che ha fatto un piano tarifario adatto per il sesso telefonico, e io ho pensato questo. Ho capito, questo, quindi hai inventato questo pezzo, praticamente. Hai creato questo pezzo. Sì. Musicalmente come l'avete creato? Come vi siete dati l'aggancio giusto? Ero a casa ed ero con la chitarra. Hai fatto un accordo praticamente. No, adesso senza scherzi. No, in realtà tutti i brani di Cinema Volta nascono assieme, in un pacco. Diciamo che mediamente mi chiudo a lavorare ai pezzi, sì, e poi esce questa cosa abbastanza definita che poi porto ai Cinema Volta. E poi ognuno ci lavora poi per i fatti. Certo, certo. Quindi anche per Detesto Agosto ha funzionato così. Diciamo che tutto 13, questo ultimo disco, che si chiama così, è nato così come gli altri. In realtà adesso stiamo pensando che il prossimo disco avrà un iter un po' più complicato, perché vogliamo complicarci la vita, ma... Quindi è quasi auto... Posso dire che è autoprodotto il disco? È assolutamente autoprodotto, cioè nel senso noi abbiamo volutamente fatto tutto nel nostro studio, che è uno studio itinerante, mettiamola cioè, così. Esattamente. Nel senso che la batteria è stata costruita, è stata costruita non so dove, da suo papà. Da suo papà. Dal papà di Alberto. Sì, è vero, l'ha costruita mio papà. La batteria è stata registrata a Verona, appunto, nello studio di Alberto, e poi il resto è stato fatto nei vari studi. Quindi avete agganciato i diversi momenti e avete fatto l'album in questa maniera. Insomma. Esatto, esattamente. Sì, ma è diciamo che grazie a Dio la tecnologia ci consente di fare questo. Esattamente. Abbiamo fatto questo. Benissimo. Adesso sono le 22:27, siamo pronti per suonare, cosa dite? Siamo nati pronti. Benissimo. Il pezzo che presentiamo per cominciare questa cavalcata fino a mezzanotte dal vivo qual è? Possiamo iniziare con la sua Yoko. Benissimo, ok. Siamo tutti pronti? Sì, sono pronto. Cosa attirerebbe maggiormente la sua attenzione? Intellettuali, donne sveglie, occhiali senza seno, pieni di ideali, maschi veri, anelli sulla mano. E io sono qui perché lo adoro. farei di tutto per conoscerlo, eppure a malincuore devo ammettere, ha perso lo spalto che aveva un tempo, si è venduto, non è più lo stesso da quando ha trovato la sua Yoko. Il primo disco era meglio, l'aveva fatto in Belgio, nel primo libro era puro, parola muso duro, nel primo film che ha girato non l'hanno mai montato, né una coppia di contrabbando presa dal suo armadio, lo preferivo sconosciuto. Ora si è troppo imborghesito, mi han detto che una volta è stato visto per le Coca-Cola, ha perso lo sguardo che aveva un tempo, si è venduto, non è più lo stesso da quando ha trovato la sua Yoko, non è più lo stesso da quando ha trovato la sua Yoko, non è più lo stesso da quando ha trovato la sua Yoko. Privato. Le interviste di Paola De Simone. Sono Paola De Simone e vi aspetto tutte le notti dal lunedì al venerdì con Pubblico e Privato, incontri con personaggi del mondo dell'arte, un'ora in cui andremo ad approfondire la conoscenza di protagonisti e comprimari, sempre con una luce accesa sulle vicende umane di ognuno. Dal lunedì al venerdì, Pubblico e Privato, le parole della notte in blu. A mezzanotte su Blu Radio Veneto. Focus. L'attualità dal Veneto, le voci dei protagonisti, approfondimenti e notizie in tempo reale, con Mirko Cavallin dalle 11 alle 12.30, dal lunedì a venerdì, su Blu Radio Veneto. Focus. L'attualità dal Veneto. Blu Radio. Rock Wave, l'onda del rock. Ok, tre cose su questo pezzo. Intanto ridiciamo il titolo. Allora, il titolo è 3DC. Che il però... pezzo, Max, stai attento. Ti ha chiesto il pezzo, non l'album. Perché il stavo già pensando a una cosa bella da dire su questo titolo. Sono proprio. No, sempre fa ste figure. Allora, rifacciamo. Ok, che titolo aveva il pezzo che avete suonato? 3DC. No, allora, il titolo di questo brano è La sua Yoko. Perfetto. E ogni riferimento è puramente voluto. Voluto con Yoko Ono, chiaramente. È voluto perché? Perché tutti noi fan dei Beatles abbiamo sempre detto Yoko ha rovinato i Beatles, però qualcuno dice anche il contrario, non è assolutamente vero, perché la grande immaginazione sonora di John è venuta fuori con Yoko. Posso aggiungere qualcosa? Dimmi, no, vai, vai. Nel senso, no, dico, dopo tutto questo, giustamente... No, in realtà è un pezzo contro i forum. Ah, ok. Perché sui forum c'è sempre qualcuno che dice ah, il primo disco era meglio, poi si sono venduti. Poi trovano sempre una motivazione. Parli con, di Beatles, con Lennon, per esempio. No, no, dico in generale. Ah, in generale. Però con Lennon... la motivazione è sempre Yoko Ono, anzi sì, con i Beatles in generale, sì, rovinato, quando è arrivata Yoko Ono ha rovinato la band, è andato tutto, però non è parzialmente, non, cioè è vero, ma si no, ma infatti, ma no, ma non, cioè, non è vero, usciamo, cioè, da questi stereotipi, insomma. Però quando lei si sedeva sul pianoforte e gli altri non la volevano, è già una cosa, sì, che dava un po' fastidio agli altri. Ma diciamo che i Beatles, grazie a Dio, vivono anche di tutta questa iconografia, è vero, tutta, cioè, è verissimo, dice anche che ci sia uno di loro che non è uno di loro, insomma. Sì, il discorso, quindi, del diciamo presunto, cioè, diciamo la morte presunta di Paul, esatto, cioè i Beatles vivono di queste cose, vivono anche del finto odio nei confronti di Rolling Stone, certo, cioè, che non è mai, c'è tutta una, è assolutamente non vero, chiaramente. Quindi giustamente anche Yoko Ono è intervenuta in un momento in cui probabilmente erano stanchi di frequentarsi, certo, certo, diciamocela tutta, avevano finito, e hanno detto cos'è che troviamo una scusa, c'è Mattia Brunelli, no, c'è Yoko Ono, sì, sì, e quindi, esattamente. Musicalmente parliamo di questo pezzo che è molto interessante, è un funky, ma un funky con venature rhythm and blues, e quello è importante secondo me. Sì, sicuramente è il nostro colore preferito, il blu. Quindi è sicuramente, anzi, perché non a questa risposta, questa risposta non ce la dà. Parliamo del, ha fatto un solo meraviglioso di tromba, dai, dimmi qualcosa, dai. D'altra parte. Ma sì, come diceva Max, diciamo il blues è diventata, insomma, una passione un po' per tutti, più a partire da questo disco, perché se ascoltiamo i precedenti in effetti Sono leggermente diversi. Sono leggermente diversi. Da qui in avanti, insomma, pensiamo che la nostra via sia questa. Cioè il blues diventa il vostro DNA, blues, posso dire questo? Sì, sì, sì, blues, funk, insomma, atmosfere di questo tipo. Tra l'altro la formazione attuale si è formata definitivamente con l'arrivo di Alberto, il nostro batterista sì, che ama molto il blues. Lui ama molto il blues. Lui dice no, sì che ami il blues, amo il funk e il blues, ma il funk si collega. Sì, sì, esatto. E quindi supponiamo, insomma, che i nostri prossimi lavori vadano in questa direzione. Sì, sì, sì. E poi vorrei sottolineare una cosa molto, secondo me, importante. Il gioco della tastiera finale che tu hai fatto, sì, ricordava molto certe tastiere fine anni 60, inizio anni 70. Sì, assolutamente. In questo disco è pieno di tastiere anni 60, anni 70, alcune vere, alcune riprodotte, ovviamente, perché riuscire ad avere tutto è un po' improbabile. Comunque c'è molto uso di clavinet, di Hammond. Esatto, di Hammond soprattutto. Sì, l'ultima parte è un Hammond in questo momento simulato, che esce attraverso un MacBook meno affascinante ma altrettanto funzionale, che però è della fine degli anni 60, è della fine degli anni 60 e funziona ancora. E qui vorrei, però vabbè, vorresti cosa? No, niente, non vorresti spezzare un'arancia, una mela, direi, una mela. In realtà il simbolo del Mac è un simbolo psichedelico, sì, sono d'accordo, non tutti sanno che niente, ma anche no, ecco. Però nel disco in realtà ci sono anche tutta una serie di tastiere e tastierine autentiche, tipo certo, ho utilizzato un Fender Rhodes, una Krumar che... Scusa, il Fender Rhodes, sì, lo so io, la Krumar che cos'è? Ecco, me lo sono sempre chiesto anch'io quando la comprai all'inizio degli anni 90 e finalmente noi abbiamo fatto un disco funky solo per poter utilizzare una Krumar, che è il primo pianoforte digitale della storia, orrendo. Ah, perfetto, però un bel suono, caratteristico. Ok, abbiamo capito finalmente. È possibile vederne un esemplare nel nostro video VIP, dove il Very Important Person, esatto, Very Important Photographer, Very Important Photographer, esattamente, se ti correggo, dove il nostro Andrea Pozzoni suona in arte Lorca, suona, cioè, lo si vede, insomma, da sotto, perfetto. Questo è anche il vostro singolo Very Important Photographer, esatto, il nostro primo singolo, che poi faremo in una versione country, se ci bello, se molto bello, interessante, assolutamente interessante. Benissimo, sono le 22:38, stiamo andando decisamente bene, abbiamo iniziato con un pezzo funky, un pezzo per muovere, fa caldo qua dentro, ma fa caldo... Fa caldo, ma un caldo, è bello, anche musicalmente porta il caldo, fa bene. Che altro hai fatto bene a citare Aldo, secondo me. Giustamente. Dobbiamo proprio parlarne ora? Ora. Parliamone dopo, lasciamo tutti i radiospettatori con questa... questo enigma in testa, Aldo. Ok, benissimo. Un altro pezzo da disco, cosa dite? Dopo suoniamo qualcosa d'altro. Sì. Abbiamo scelto in scaletta quale, ti ricordi? L'altra bella... Abbiamo scelto, secondo me, L'amore ai tempi della che è la traccia numero... 3. Sì, esatto. Conferma. Conferma, Michele conferma. Tutto bene, Michele. Ah, Michele, non è Maurizio, vogliamo, no, Michele, teniamo a sottolineare. Michele, sei il numero uno, Michele. Sei il numero uno, ricordatelo. We'll be right back. aspetterò qualche giorno, poi lo farò. Imprimerò il giro giusto al tuo numero. Aspetterò qualche giorno, poi lo farò. Imprimerò il giro giusto al tuo numero. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ecco, quando ho sentito questo pezzo mi sono rivolto al nostro tastierista, gli ho detto: questo assolo, questa parte di assolo, mi ricorda gli Earth, Wind & Fire. Parliamo un momento di questo, di questa vicinanza alla Rhythm and Blues, dai. Yes, sono il mio gruppo preferito, gli Earth, Wind & Fire. Gli Earth, Wind & Fire e Stevie Wonder sono i miei due gruppi preferiti. Ecco, anche Stevie Wonder, sì. Sì, no, assolutamente abbiamo attinto da tutta quella grande storia funk, anche dai Funkadelic, anche certo, da George Clinton, anche da tutta quella cosa. Jamiroquai, chiaro, chiaro. O Joaquin Nero, come lo chiama sua mamma. L'avete visto in concerto di recente? Sì, sì, e gli abbiamo anche detto che sua mamma lo chiama Joaquin Nero. E lui ha apprezzato. Benissimo. Adesso mi parli di quella solo molto bello che fa in questo pezzo. Sì, fondamentalmente è sulla pentatonica. Cioè? Allora, la pentatonica è questa. Okay. Adesso la faccio veloce. Poi adesso la faccio... No, scherzo. No, è una solo... Sì, è una solo... Beh, è una solo ben riuscito, possiamo dire questo, dai. Beh, cavolo. Sì. Se lo dite voi, io... caspita, no, a noi ci piace. Allora è la prima volta che me lo dicono. Acidermo. Ci piacerebbe se anche dal vivo lo facessi a volte. Io lo faccio sempre, solo che non mi sentite perché voi pensate ai vostri strumenti. Sì, ma d'altra parte, no, io voglio sapere una cosa. Prima dal, mio, bene, adesso siamo in live acustico, pseudo acustico, anzi, assolutamente acustico. Dal live invece con gli strumenti elettrici avete la possibilità, durante la canzone, di spaziare, ognuno prende un leggero spazio per andare oltre al pezzo stesso oppure no? Diciamo che in realtà la canzone è il leggero spazio torniamo a fare qualcosa che quindi abbiamo assoluta. Qualche problema in questo senso. Sì, cioè cosa vuol dire? Sì, cioè che dobbiamo autoregolamentarci e giurare che faremo la struttura. Certo, però c'è un motivo. Dimmi. Obiettivamente stiamo suonando tanto e fare le stesse cose magari anche due volte al giorno, perché quando suoniamo in Francia e ci capita spesso di suonare in Francia, facciamo due set al giorno magari in due posti diversi, non so, alle 5 del pomeriggio, alle 9 di sera, no, magari a pranzo, perché in Francia si suona molto a pranzo. Ho capito. Grazie al nostro impresario francese Vincenzo Cirillo, che ci trova sempre delle date fantastiche. E quindi dobbiamo trovare anche un modo per trovare sempre qualcosa di diverso, e quindi i nostri pezzi diventano sempre qualcosa di diverso. Questa è una cosa che ci fa molto piacere. A proposito di impresari, ringraziamo anche David Bonato, che grazie a lui siete qua stasera. Come assolutamente no. Grazie David. Grazie David. Grazie David. Grazie David. E anche possiamo dire anche a Mattia, scusami. Mattia, vieni a dire grazie. Grazie David. Benissimo. Donne all'ascolto, trattenete gli ormoni. E dobbiamo anche ringraziare il nostro direttore artistico Alberto Prisco, grazie anche a lui. Grazie Alberto. Grazie Alberto che ti chiami come me. Ok, parlando quindi di Earth, Wind & Fire, quindi Stevie Wonder, quindi il funky e il soul, un DNA fondamentale per la vostra musica. Soprattutto in questo disco, diceva il nostro trombettista, o no? Sì, vorrei spezzare una lancia a favore degli strumenti a fiato, tipo la tromba e il saxofono. Spezziamo un'ancia. Un'ancia degli strumenti a fiato, che sono sempre meno usati nella musica italiana, soprattutto si sentono molto poco, ma secondo me non perché diciamo, sia uno strumentista di strumento a fiato, ma donano a dischi soprattutto di questo genere, diciamo, un suono unico. Tutti ci ricordiamo le sezioni di fiati degli Earth, Wind & Fire, che erano una cosa spettacolare. Ma secondo te perché c'è questa difficoltà allora, di usare gli strumenti a fiato? Certamente è un problema, può anche di costi, un problema forse. Di costi, esattamente, sì, perché certo. Nell'affrontare una produzione, prevedere anche l'incisione di strumenti a fiato Non è una cosa semplice. Esatto, noi fortunatamente siamo dotati di tecnologie per cui siamo autosufficienti nell'incisione dei nostri dischi e possiamo... Ma non è mica effettata la tua tromba quando la suoni? La suoni effettiva? No, la suoni effettiva. Appunto. Certo. Suona effettiva. No, però abbiamo avuto anche, spezzare un'ancia a proposito, per uno strumentista d'ancia che ha partecipato al nostro disco, che si chiama Filippo Pardini, è un sassofonista molto molto bravo, con quale tra l'altro abbiamo suonato la settimana scorsa a Vicenza. Bene. Finalmente, dopo un po' che non l'avevamo con noi sul palco. Ed è sempre un piacere suonare con lui, ed è sempre un piacere avere una sezione di fiati più completa. Visto che ci siamo, visto che hai citato una data, se vuoi citare altre date, poi le ripeteremo alla fine della trasmissione. Allora, sabato saremo a Desenzano in provincia di Brescia, domenica a Verona, e poi ci sono un sacco di date, basta andare sul nostro Facebook, sul nostro Facebook e sul sito ci sono tutte le date abbastanza aggiornate. Perché voi, nonostante tutto, oltre avete fatto inciso 5 dischi, ma siete una band che suona molto volentieri dal vivo. Sì, live sì. È una cosa fondamentale. Diciamo che il disco è una scusa per suonare dal vivo. In realtà, ok. Quindi... Beh, i dischi si vengono solo dal vivo adesso. Sì, sì. Poco infatti, infatti. Visto che è autoprodotto, anche quello è una cosa importante. Sì, ma non continuerei a sottolinearlo. No, in senso positivo. No, ma sto scherzando. L'autoproduzione è una cosa positiva. Sì, sì, sì, assolutamente. Vuol dire avere coraggio di portare avanti una certa strada. Poco remunerativa. Lo so, poco remunerativa, però... Le grosse case discografiche non puntano sulle band emergenti, puntano solamente sulle band. Diciamo che noi abbiamo superato il limite da band emergente a band anziana. Ma non siamo passati nel mezzo, ci siamo dimenticati di passare da quella ma parte. Ma siete anziani? Da band emergente a band emergenza. Ok, benissimo. Io proporrei un altro pezzo live, perché è live, è fondamentale in questo programma. Anch'io, ma... Carnevale, facciamo Carnevale. Okay. Che si intitola però Carnevale 82. Perfetto. Posso avere un po' di... Sì, adesso alziamo un momento e partiamo. Perché mi sento così da un'altra parte? Voi mi sentite bene? Personalmente, umanamente? Sì, cioè mi sentite vicino a voi? Ti sento vicino, sì, anche nei momenti difficili. No, io invece ti sento un po' lontano ogni tanto e vorrei... No, ma non è proprio un problema, è proprio un problema di cuore, insomma. Okay. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Some montagna, la faccia che prude rossa. Freddo raggiunge le ossa, ma il TG parla solo di Mosca. La scorsa estate, carte da gioco e mollette, tra i raggi delle ruote, un rumore di motociclette per carnevale. Scarpe di vernice, mi hai guardato dritto in faccia, solo per dirmi basta. Passa il tempo, sperare, ma non ti accorgevi mai del tempo passare. scarpe, l'hai detto a carnevale, ho provato a non ascoltare le tue amiche, già pronte per le medie, come profumate, e voglia di esperienze. Passa un po' il tempo, sperare, ma non ti accorgevi mai del tempo passato. Sperare, ma non ti accorgevi mai, passa un po' il tempo. Sperare, ma non ti accorgevi mai del tempo passato. Sperare, ma non ti accorgevi mai. Ma non ti accorgevi mai del tempo passato. Sperare, ma non ti accorgevi mai. Everyone you meet, they're jamming in the street all night long, all night. Everyone you meet, they're jamming in the street all night long, all night. All night long, all night, all night, all night long, all night, all night, all night long, all night, all night long, all night, all night. Passa il tempo a sperare, ma non ti accorgevi mai del tempo passato. Sperare, ma non ti accorgevi mai. Blu Radio Veneto. Blu Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, ci siamo, benissimo. Mattia, si può avvicinarti, il nostro fotografo. Proprio fotografo della band. Se vuoi, puoi chiederci le fotografie, te le mandiamo fra 5 anni. Ok, parliamo di questo pezzo che è molto bello, che aveva un pezzo che mi avevano detto che cima volta erano simpatici, qua che rompiballe. Questo pezzo che si allargava nel finale, una specie di jam session avete fatto, è una cosa molto positiva e io sono molto contento di questo, perché il live di Rockwave è il live un po' particolare, cioè si allarga, non è mai un live ristretto, ma si allarga profondamente, ed è giusto che sia così. Vogliamo fare il record di citazioni in un pezzo. Avete citato, siamo fatto una bella citazione. Ma addirittura tre ce n'erano. Vai, sparale, dai. Io ne ho beccate due. Lo so, perché la terza mi è venuta male. Non me ne sono pensata la terza. Anch'io ne avevo beccate due. Beh, le puoi dire. Ce le tutte e tre. Ah, pensavo che. No. Secondo me, allora Alberto la sa. Dai, sì, era gli Chic. Vero. Bravo, Alberto. Vedi? Gli altri due, Max, qual erano? E le altre le dite voi adesso, che avete fatto. Io ho beccato i Black Eyed Peas, perché quando vado in disco la ballo sempre. Bravo. E poi l'ultima? Era Lionel. Ah, Lionel Ricci. Ricciolino Ricci. Lionello. Lionello Ricci. Benissimo, beh, sono belle le citazioni. Sì, noi viviamo di citazioni. Bene, bene. Anche nel live ne facciamo. Quante ne, ne fate nel live? Suoniamo anche diverse cover nel live, tutte riproposte. Quali, per esempio? Ma è possibile farne qualcuna dopo? Ma come volete, assolutamente. Allora dopo ne facciamo anche, secondo me, suoniamo, cioè è meglio riuscita è quella dei Nirvana. Quale? Smash, il singolo famoso che ha sconvolto i cuori di tutti gli affezionati. Esatto. Anche quella di Kylie Minogue mi piace parecchio. Anche quella che si chiama Kent, non mi ricordo. You can. A me piace quella di Remo Girone che facciamo, però non ricordo il titolo. Remo Girone. A proposito di attori, voi avete lavorato tempo fa con Claudio Bisio. Com'è il discorso? Allora, com'è andata? Dai. È andata molto bene. Mm. Claudio Bisio è una persona molto simpatica, molto professionale. Mm. Molto evanescente, perché insomma ha lavorato un giorno e poi è sparito. E poi è sparito. Ma non è colpa sua, insomma, ha un sacco di impegni. Mm. E, no, è stato molto interessante lavorare con lui, soprattutto con Giorgio Terruzzi, che in realtà è il responsabile di questa nostra incontro. E, anche perché ha scritto un libro molto interessante che si intitola Il mio Dio è ateo. Sì. Ed era un lungo monologo che poi è stato tagliato e alcune parti appunto sono state lette da Bisio, molto lunghe, perché in realtà era un CD di 74 minuti, quindi però, di musica ce n'era parecchia. Ma avete incontrato a teatro Bisio? L'abbiamo guardato in studio direttamente. Ed è stato molto molto interessante. Molto sì, poi tra l'altro veramente molto professionale. Mm, certo. Cioè, a di là pochissime take e tutte riuscite, quindi questo è buono. E beh, siamo ovviamente fa molto curriculum, perché dire che abbiamo lavorato con uno che fa Zelig, insomma. Sì. Sì, siete tutti d'accordo. Lo so. Sì, tutti d'accordo. Alberto ha doppia voce stasera. Sì, perché. Dopo parlerà veramente. Anzi, sono le 23:23, l'ora fatidica. È l'ora X, di Michael Jordan. Siccome siamo in 5 stasera, c'è anche Mattia, non so, potrebbe intervenire anche lui. Sì, siccome siamo in tanti, di solito facciamo 5 dischi da portare sull'isola deserta. Beh, lo fai un po' di sottofondo, facciamo solo 3 dischi da portare su un'isola deserta. A vostro piacimento, la regola fondamentale del programma, come mi insegna Michele in regia, non si può copiare. Quindi, ok, chi vuole partire? Io faccio dire al mio amico Alberto, che stimo tantissimo e ci tengo a dirlo qui. Però adesso ti alzi e fai sentire la tua voce. Esattamente. Va bene. Eccomi. Vai Alberto, cita i tuoi dischi, dai, su un'isola deserta. Tutti io. Tu sei il primo, no. Quindi sei avvantaggiato rispetto agli altri. Ciao, allora io mi presento ufficialmente ai microfoni. Sì, ok. E alla radio. Io ne citerei uno, mio. Sì. So che gli altri mi odieranno, ma io vorrei citare i Toto. Quale? Toto 4? No, quella è una raccolta. Si no, fa Toto 4 non è una raccolta. Sì. No, è un disco ufficiale. Ma dentro ci sono i pezzi vecchi e dei pezzi nuovi. Sì, va bene, ok, possiamo quindi dire. Quindi è una via di mezzo. È una via di mezzo, dai. Ecco, io vorrei fare un omaggio ai Toto con questo pezzo, che è uno dei miei pezzi preferiti dei Toto, che è Giorgi Porgi. Perfetto. Che magari poi potremmo anche eseguire. Si può eseguire. Comunque io volevo citare Tambù, che per me è un album molto importante per la storia dei Toto, perché comunque segna la fine, ahimè, della presenza di Jeff Porcaro all'interno del gruppo. Certo. E la venuta di Simon Phillips, sì, che comunque ha cambiato di parecchio l'impronta della band. Grazie, ti ringrazio. Michele, era subito scorso. Ti ringrazio di cuore, guarda, mi scende una lacrima. Bene, bene. Tra l'altro gli scende una lacrima in mono, è il primo caso. È il primo caso in assoluto. Solo un occhio. Quindi i Toto sono un gruppo importante. Quindi sì, per me segnano una fetta importante della mia musicalità, cioè la tua crescita musicale sicuramente, senz'altro. Bene. E niente, poi vorrei lasciare la parola a altri due dischi. Sì, per forza. Beh, io ne vorrei citare uno insieme al mio amico Max, che sarà senz'altro d'accordo con me nel citare John Mayer. Quale? Ma io direi che Continuum ci sta bene. Sì. Sì, diciamo che è l'album di maggior successo che ha consacrato questo fantastico artista in maniera enorme, sì, sì, sì, al pubblico mondiale, certo, perché comunque certo, ha vinto anche dei premi importanti, sì, certo, grazie a questo disco, e diciamo che grazie a questo disco si è fatto conoscere al grande pubblico. Magari prima era un po' più, era un po' più da feticisti. Esattamente. Però diciamo che con quello, esatto, con quello facciamo delle note importantissime, Max, e dai, concludi col terzo album. Terzo album, io vorrei vorrei un aiuto. Ecco, dai. Oh, dai, pensaci bene. Dai. Quello, quello bello, quello, quello, quello lì, quello lì, quello che ti piace tanto. Quello che fa anche l'attore adesso. Eh sì, quello di quello di batterista che tu ogni tanto, e c'è anche uno che fa uno strumento così. Allora io vorrei citare ma sei sicuro? Sì, sì. A te non piace? La sì. Dave Matthews Band. Sì. Sì. Perché fa l'attore? Perché sì, fa sì, sì, sì, Dave sì. Matthews ha fatto, tra l'altro ho visto un film l'altra sera. E com'era? Vabbè. È bravo. Beh, lui ha fatto quanti dischi del vivo avevano fatto i Dave Matthews Band? Del vivo praticamente ne una valanga. Ne fanno tipo 30 per una valanga, ogni tour, una perché valanga, registrano ogni data. E hanno fatto un disco, un concerto di recente da queste nostre parti, chiaramente. Sì, un grande concerto. Sei andato a vedere? Sì, ho ovviamente preso parte come spettatore. Una grande band Dave Matthews. Però me li sono goduti. Però posso dire una cosa e dopo terminiamo con te. È un suono molto americano, anche più amato. Io sono molto chiaramente sono molto amati negli Stati Uniti, un po' meno in Europa, decisamente meno, anche se è una grande band. Guarda, potrei dire lo stesso anche di John Mayer, ahimè. Sì, questo è vero, sono perfettamente d'accordo con te. Il problema non credo che nasca dalle sonorità dell'artista, no. Ma credo che sia ci sia dietro un qualcosa di commerciale. Può darsi cioè una certa preparazione, un certo modo di esporre l'artista in una certa maniera. Probabilmente è anche quello. Anche se Dave Matthews ha avuto di buoni successi anche in Italia. Chiaramente non ai livelli americani, però il zoccolo duro c'è, esiste della Dave Matthews Band. Sì. L'hai compreso? Io faccio parte di questo zoccolo duro come credo molte altre persone. Certo, certo. Anche perché insomma ha fatto due date molto ravvicinate in Italia, certo. E ha riempito due palazzetti. È vero. Quindi credo che possibilità di fare dei numeri da parte di questa artista band in Italia ci sia, come una band di grandissimo livello, certo. Che c'è poco da fare. Ok, tocca a voi adesso. Alberto ha finito. Oh. Allora, ho premesso che non mi ricordo neanche un titolo, ma non ci importa. Posso arrivare. Puoi allora, arrivare così. Il primo disco, il primo disco è anche un omaggio. Dimmi. A Gil Scott-Heron, sì. Ok, ed è The Battle, e non lo dico per fare un omaggio a Gil Scott-Heron, ma è uno dei miei dischi preferiti. Perfetto. Per tutta una serie di motivi, perché ha avvicinato la cultura hip hop al jazz, al funk, ed è tutto quello che ascolto, ed è tutto quello che mi piace. Tra l'altro l'ultimo disco, di cui onestamente non ricordo il titolo, mi sembra I'm New Here, una cosa del genere. Non è bellissimo. Non mi ricordo proprio. Però ed è stato votato come miglior disco d'avanguardia, e pensare che è scomparso, aveva tipo 70 anni, fa morire. E poi mi viene, non so, Master Blaster, Stevie Wonder, sì. E poi magari penserei, ne dico anch'io tre, penserei a un disco italiano e mi viene in mente un disco rock italiano che mi è sempre piaciuto, è Ivan Graziani, I Lupi. Bello, bello, bello, sono molto contento che tu abbia citato Ivan Graziani come un musicista straordinario, è un grandissimo chitarrista. Sì, e quello era veramente un gran disco. Benissimo, okay, sono d'accordo con te. Tocca a te, dai, facciamo a te il nostro bassista. Guarda, io faccio la svelta perché allora, un disco qualsiasi dei Pink Floyd, non primo, secondo periodo, ma non importa, uno ma qualsiasi. Animals, io direi Animals. Animals. Ancora con i Pink Floyd effettivi o i Pink Floyd senza Roger Waters? Ma se i Pink Floyd sono i Pink Floyd. Esattamente, terminano a fare Final Cut. Vabbè, Animals o un altro, vabbè. Non importa. Police. Quello che vuoi di Police. Iron Maiden. Ah, come mai Iron Maiden? Che mi piacciono. Perfetto. No, volevo sapere il significato, la ragione. No, allora, fanno parte della mia infanzia musicale e di tutti questi tre non suono niente. Ah, ho capito, perfetto. No, però è un amore viscerale. Tocca a te, Max, dopo facciamo il giro. Non ce la faccio, io sono le classiche domande che mi mettono in crisi. Perché? È una bella domanda. Perché... Lo so, sono tre solamente. Ma è impossibile. Abbiamo tempo fino a mezzanotte, quindi... Allora... Dico tipo le tre cose che ti viene in mente. Little Criminals di Randy Newman. Ecco, posso dirti una cosa? Dunque, sono 5 anni che facciamo Rock Wave, forse anche di più. Penso sia uno o due persone che hanno citato Randy Newman. Una delle due persone sei te. Mi fa molto piacere. Era sempre lui. Probabilmente ero io anche l'altra come volta. Come mai questo grande musicista, non amatissimo, più che altro poco conosciuto in Italia? Perché Randy Newman? Perché ha scritto la canzone per... per Toy Story fondamentalmente. No, scherzo. Sì, no. Però ha scritto anche quello. No, sì. No, in realtà perché è colui che sa scrivere delle canzoni su chiunque, riesce ad essere in tutte le canzoni senza mostrarsi, non so come dire. Ho capito, riesce a capito. Sparire all'interno dei personaggi. È l'autore perfetto, praticamente. È l'autore perfetto, sì. Benissimo. Quindi citerò solo autori, ho deciso la mia linea. Quindi Randy Newman. L'altro è Billy Joel. Ah, grande, un altro grande, che sa sparire dentro i personaggi. Scrive anche delle cose che a volte sono banalissime, perché vabbè, adesso non c'ho voglia di citare delle cose, però è eccezionale come riesce a... È un altro grande scrittore esatto, di canzoni. È un altro. E allora, visto che ci siamo, chiuderò la mia triade di grandi scrittori con... So che farò felice anche il mio amico Andy, con Elvis Costello. Beh, e possiamo citare anche in qualunque disco di Elvis Costello. Ma ne ha fatti tanti. Sì, ma anche gli ultimi che mi piacciono sì. tanto. E lui aveva sempre la caratteristica, per voi lo sapete sicuramente, in ogni suo concerto aveva una specie di per buttare praticamente come si chiamano le monete, no, le monete, le freccette per citare, per scegliere i pezzi sì, da parte del pubblico. Sì, sì, sì, sì. Io l'ultima volta che l'ho visto ha lanciato direttamente la chitarra sull'ampli. Ah, perfetto. Però poi meraviglioso. Bravissimo. A proposito di questo, lo sapete? Beh, forse sì, lo sapete. Brando Hardy, che ha fatto un disco di recente, proprio qualche mese fa, ha citato un pezzo di Elvis Costello, ha ripreso un pezzo di Elvis Costello, tra l'altro meraviglioso, tradotto dalla moglie Luisa Zappa. Brando Hardy ha fatto una bellissima versione di un pezzo molto importante di Elvis Costello, un omaggio a un grande autore come Elvis Costello. Noi abbiamo un brano che si titola improvvisamente un vuoto si chiama Mister Costello, gli abbiamo dedicato un pezzo, anzi dopo la facciamo certamente. Il nostro trombettista, vai. Ma io poi citiamo anche Mattia, certo, sì, Mattia, anche Mattia. Tra l'altro è un cultore della musica eccezionale. Io per via dello strumento che suono non posso non citare Miles Davis. Ah sì, chiaramente. Quindi Kind of Blue, sì, quello che vuoi, quello che vuoi. Miles Davis è il trombettista che ha rivoluzionato tutto. Sì, e poi ha sviluppato la tromba per tutti quelli che certo, sono seguiti. Certo. E poi non posso non citare le mie origini musicali nella musica classica. Cioè? E quindi nella musica classica io mi porterei un'opera qualsiasi di Bach, che ne so. Beh, la grandiosa messa in si minore, diciamo. Benissimo. Riscoperta da Mendelssohn Bartoli, certo. Era un po' stata dimenticata. E poi non so, citerò magari una cosa che invece è piuttosto distante da me, ma che quando è uscita insomma ci ho dedicato buona parte delle mie orecchie, che è stato Nevermind dei Nirvana. Dei Nirvana, il grande Kurt Cobain. Perché ti piace quella mi piace quella. Tu hai citato il Bach. Io ricordo che Bach, sì, io Bach lo conoscevo non benissimo, l'ho scoperto. È stato qui anche lui? Sì, ma sì, forse due. Chi me Bach? Aspettate. Ricordo che tanti anni fa, che non ero molto esperto di musica classica, indirettamente ho scoperto Bach, sai da chi? Dai Nice, con i concerti brandeburghesi. Ah. Quei Nice che hanno fatto Emerson, era un mostro per queste robe qua. E ha ricitato il Bach, ha citato a sua maniera Bach, chiaramente, con i concerti brandeburghesi. Allora mi sono dato a rivedere, a risentire, più che a scoprire questa meraviglia di concerti brandeburghesi di Bach. Bach è la matematica nella poesia. È vero. Una cosa volevo chiederti, Max. Tu hai parlato di grandi autori, poi passiamo a Mattia. Sì. Pensavo che citassi anche Paul Simon. Ero tentato, infatti in realtà stavo pensando anche a lui, ma l'ho citato in un'intervista esattamente una settimana fa. Ah, basta. E ho citato questi quattro, quindi mancava proprio Paul Simon. Perfetto. Mi fa piacere che almeno non sono andato fuori tema quando ho fatto quell'altra intervista. No, hai fatto sei andato perfettamente contento. In tema. Adesso tocca a Mattia, il nostro fotografo. Sì, per me è sempre un po' difficile rispondere a una domanda del genere, perché di musica ne ascolto davvero tanta. Però diciamo che possiamo partire anche da Bruce Springsteen. Certo, quasi, quali del boss? Darkness on the Edge of Town. Bellissimo, ottimo. Del 78, che secondo me è uno dei dischi più belli che abbia mai fatto. Eccolo. È sottofondo. Sì, sottofondo per il boss. Anche Springsteen lo seguo un sacco. Devo dire che quello è un disco che mi piace sempre ascoltare in qualsiasi momento della giornata, in qualsiasi umore che io ho, ecco. E poi il fatto che io ascolto proprio tanta musica mi permette anche di spaziare a livello di album. Certo. E quindi, per esempio, un disco per me fondamentale è stato il primo di Franz Ferdinand. Ah, Come mai hai citato Franz Ferdinand? Che ha aperto una certa via di far musica in Inghilterra. Quello è il fatto. Il pop inglese. Mi hanno fatto conoscere l'indie rock. Cioè, certo. Se non c'erano loro, che ho ascoltato il disco alla Fnac ancora nel 2004, ho sentito il primo pezzo e mi è venuto un po' da comprarlo. Posso dire una cosa, Mattia? Però poi si sono un po', calati qualitativamente. Non so se sei d'accordo. Hai cambiato genere. Esattamente. Sono verso un'altra strada, ecco, ho cercato un po' di... Di allargare gli orizzonti. Sì, li ho visti a Roma dal vivo e hanno fatto un spettacolo eccezionale, ecco. E concludo con un disco che anche questo qua rientra nei miei preferiti, anche se comunque è difficile scegliere sempre tre dischi. Certo. Che è Ok Computer di Radiohead. Ah, bellissimo quello, okay, bellissimo. Questo è un disco, anche questo li ho conosciuti tardi. Li hai visti qualche volta al vivo? Purtroppo no, perché sono venuti in arena una volta, però li ho mancati, li ho scoperti un pochino dopo. Però che il computer della Radiohead è sempre... È un disco epocale, secondo me. Sì, hanno fatto tante cose, anche tante cose difficili, molto complesse. Infatti tanti dischi successivi faccio difficoltà ad ascoltarli a volte. Però... Ma la scrittura di Tom York è una grande scrittura. Assolutamente sì, grazie per il sottofondo. Questo l'ho colto. Eccola. Ok, abbiamo finito questa breve carrellata sui vostri dischi preferiti. Sono le 23:14. Io proporrei di farsi di un altro pezzo da disco, che c'è il terzo. Ti ricordi la traccia che qual era? Assolutamente no. La 10, la traccia numero 7, mi ha detto. La traccia numero 7, che è il pezzo più bello, tra l'altro, del disco. Non mi ricordo. Non ti ricordi? È Oblomov, un pezzo bellissimo. Pezzo bellissimo. E adesso... comprate tutti il disco di Mattia Brunelli. Perfetto. Che rimbombano nei sogni, rumore di mare e scarpe bagnate, il suono lontano, mi devo svegliare, sentirti piangere il mio nome mentre fuori più. Il tuo sguardo fisso dentro il buio, resto in silenzio senza volerlo, sono distratto dal tuo respiro, mentre col dito gioco col filo. Come un cliché da romanzo russo, rimango disteso sul mio letto. presto parto per un lungo viaggio. Faccio mentalmente il conto del tempo rimasto. Voglio scappare senza ascoltare. Io lo so fare davvero bene. Dovresti sapere con chi hai a che fare. Come un cliché da romanzo russo, rimango disteso sul mio letto. Come un cliché da romanzo russo, rimango disteso sul mio letto. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Ok, ci siamo. Sì, ci siamo. Avevo sentito questo pezzo molto bello, perché io voglio capire l'andamento di questo pezzo, che è piuttosto complesso, un po' diverso dagli altri, anche come costruzione. Vai, Max, e poi qualche altro vuole parlare, chiaramente. Ma sì, in realtà è vero che è strano, perché c'è una parte un po' storta. In che senso? No, nel senso che cioè, la prima e la seconda strofa non sono uguali. Ed è una tragedia per Stefano, che ha una memoria. Ecco. E tutte le volte che la suoniamo sono lì. E infatti la suoniamo pochissimo. Dico, chissà se si ricorda che qua c'è il cambio in Mi. Oppure no. E infatti non la suoniamo. No, il cambio in Mi lo becco sempre. È l'ingresso. Ah, ok. Ah, vabbè, non volevo. No, dimmi. No. Stava solo pensando. No, cambi il mio, lo becchi sempre. Il mio becco è l'ingresso proprio. Ma tecnicamente cosa vuol dire l'ingresso? No, perché all'ingresso all'inizio ha due battute, invece dopo quando c'è il riprese. Ho capito. Dalla strofa ne ha un. Quindi, è difficile suonarlo assieme. Come spiegava lui, non è tecnicamente difficile, è difficile. Entrare nel mood del pezzo praticamente. Un attimo prima magari hai fatto tutt'altro e poi ti devi buttare. Ho capito. E quanti take ha avuto il bisogno di questo pezzo? Quante volte avete ripetuto? Allora, in realtà poche, ma perché abbiamo le idee chiare quando andiamo a registrare. Questo è importante. Un po' perché poi registriamo avendo registrato nel nostro studio, insomma, non abbiamo. Quindi avete già qualcosa dietro. Sì, no, nel senso che ovviamente soprattutto per questo disco, quando si è arrivato a registrarlo già l'avevamo un po' provato, quindi, ma il prossimo sarà ancora di più, quindi siamo sempre più proiettati verso... Citando il mio amico Malattia Brunelli, che è un fan di Springsteen, e sono contento che abbia citato Springsteen, perché comunque è un altro che scrive grandi canzoni, che è Kennedy K. Morgan. Adesso si sta rivalutando, cioè, l'ha rivalutato. Ti piace Springsteen? Non c'è problema, ha cambiato anche lui. Beh, non può cambiare parere sul boss. Dai, infatti, è diventato. Ha passato l'adolescenza, grazie a Dio, anche lui. Non mi ricordo. Che ci sono dei bellissimi. Non mi ricordo se era quando è uscito il Trex, che era quel cofanetto in cui c'erano dei brani inediti, e avevano registrato dei brani nuovi e li avevano registrati tutti in una take così dal vivo. È fantastico vederli suonare delle take così senza. Poi ovviamente avranno magari la 800esima, quella che hanno filmato, certo. Che andava tutto bene. È molto bello vederli così. Quindi è una cosa che affascina molto me. Stefano ha fame. Hai fame, Stefano? No. Sta svenendo. Faccio così perché Perché devo tagliare. No, dicevo che in realtà affascina il ragionamento interessante. Che io temo sempre il giudizio di Stefano. Puoi intervenire, Stefano, c'è un microfono davanti. Ma no, stavo pensando a Charlie, che è il suo cane. E, no, in realtà sono molto affascinato dalla possibilità di registrare un disco così, come facevano i Beatles, come facevano tutto in una take, tutto. E so che tutti siamo affascinati, però ce la facciamo un po' tutti sotto. Abbiamo paura di farlo. Ma prima o poi arriveremo a fare anche questo. Ma c'è chi l'ha fatto, o meglio, chi ha tentato di fare uno ritorno a come si registrava una volta? Per Jam, per esempio, tendono a farlo. Esatto. Per esempio, avevano fatto un video del loro terz'ultimo disco, mi sembra, in cui avevano rifatto il video, suonato tutto dal vivo, era molto carino. No, parlavo anche di una band che è venuta e ha fatto un ricorso analogico. Ah, pensavo che per Jam fosse. No, idealmente. No, ma in realtà lo si può fare anche col digitale. Certo, cioè adesso certo. Cerchiamo di non essere schiavi del. Cioè, bello suono analogico, ma insomma, diciamo che saper suonare non. Cioè, esula dal digitale o analogico, nel senso che purtroppo si confonde spesso, come diciamo spesso noi prendendoci in giro, noi facciamo la musica col computer. Sì. Quando ti dicono hai fatto la musica col computer, hai fatto la musica col computer. Con senso dispregiativo e faccia un po'. In realtà il computer è un registratore, punto. Punto e basta. Tu hai citato Pearl Jam, non so se sapete sicuramente, che è uscito questo disco di Andy Vedder con l'ukulele. Sì. Che io l'ho sentito, è un bel disco. Chiaramente non è l'ukulele, è il piatto di Alberto. No, volevo fare l'ukulele con quello. L'effetto David Letterman. Esatto, sì. è un bel disco, cioè un disco con l'ukulele, quindi è abbastanza striminzito quello il suono. Certo. Però lui riesce sempre a dare un tocco diverso, per niente si chiama Eddie Vedder, come sappiamo tutti i dischi di Pearl Jam hanno un tocco diverso, c'è poco da fare, secondo sì, me. Sì. È d'accordo Mattia? Anche Mattia è d'accordo. Mattia Brunelli annuisce. Ovviamente. Però io voglio una domanda su perché 3DC, così mi tolgo questo peso che ho addosso da un po'. Perché, perché hai 13? Ah, 13, me l'aspettavo questa domanda. Vai, forza, dilla te, Max. No, in realtà è dedicata a Mattia Brunelli. Ah, sempre a lui, sì, perché, ma non lo sapevamo, quando perché arrivi? 3DC sta. Perché 3DC? Sì, esatto. Sta per tre donne contemporaneamente. Quindi, sì, è un'interpretazione un po' diversa. 13? 13? Ah, 13? Sì, 13. Dico. Alberto 13. Vuole intervenire. Secondo me domani al mare non ci vai. Secondo me domani sono almeno due donne contemporaneamente che stanno ascoltando. Bene. No, sto scherzando. Susi, Francesca e Marisa, stiamo scherzando. 13 è anche il titolo del disco vostro, chiaramente ripetiamo. Sì, 13. Appunto sono 13 sono le tracce del disco. Insieme. Sono anche 13 le donne di Mattia Brunelli. Perfetto. Sempre per restare in argomento. No, 13 sì, sta per un sacco di cose, sì, in realtà. Chiaramente. Sta per terzo disco di Cinema Volta, perché è il terzo disco vero perché in mezzo EP. C'erano due EP. C'è un EP, poi c'è un libro, insomma, quindi poi sta per, in realtà c'è Dante in copertina, certo. Quindi volendo è tre come i canti della Divina Commedia. Giusto. Oppure 13 pezzi. Mi sento un po' in ansia con tutte queste macchine fotografiche e tutto il resto, ma va bene. Poi 13 pezzi, giustamente. Poi 3D, gli occhialini 3D, infatti Dante in copertina ha gli occhiali 3D, che sono una cosa meravigliosa, perché adesso, visto che possiamo dilungarci, adesso mi lancerò in questa cosa. Il 3D è una cosa estremamente vintage, ce la stanno spacciando come una cosa modernissima, ma è dagli anni 70 che gli occhialini 3D ci sono. 13 sono anche 50-60. No, ma dico noi, già negli anni 70 andavamo... Scusa. Stefano, il microfono. Ecco, per questo che è difficile suonare con Stefano, che si dimentica. È perché lui è uno spirito libero. Sì. Come tutti i veri musicisti. Esatto. È un selvaggio. Abbiamo un po' di pianoforte sottofondo che fa sempre bene alla salute. Oh, sì, così sì che si ragiona. Ragioniamo meglio se suoniamo un pezzo, cosa dite? Sì. Ah, ecco. Andy. No, puoi continuare. Hai capito il messaggio che ti è arrivato? Ecco. Io però invece a me piaceva questo. No. Era l'accoppiamento del Ghepardo di Moreno Piccoli. Ah. Bene. Che gli arrivino i diritti, mi raccomando. Assolutamente. Cosa suoniamo adesso? Abbiamo citato lo facciamo? Sì. Abbiamo citato Costello, facciamo questo pezzo vecchio che si intitola è un pezzo nostro. Ah, che giusto, si intitola Mister Costello. Scusami, no, è un pezzo vostro. Benissimo. Ed era su Smetti di essere felice, che era il nostro secondo disco, che però era con un romanzo perché non volevamo farci mancare niente. Bene. E questa è la canzone. Benissimo. magari se l'accendo. Okay. Scusate, possiamo metterci d'accordo un attimo? La facciamo swing o la facciamo funk? Così cambia allora, il suono. No, facciamola come viene. Okay. Cioè, nel senso, non lo sai finché non parte. Mettiamoci d'accordo. Ma quando mai? Ma chi sei? È già un miracolo che abbiamo fatto lo stesso, abbiamo deciso lo stesso pezzo. Ok. Non valgono i suggerimenti. Ti ho visto, sai? Intanto sta tutto nel maestro battere. Mister Costello ci prenda come figli, Mister Costello ci riempia di consigli. Vorremmo se possibile incontrarla ad un party, restare tutta sera a guardarla mentre intento a grattare dalle facce della gente le parole che lei solo trasforma in illusione. Allora che ne dice? Certo sappiamo dell'altro Elvis, noto e venerato da tutta la gente, ma lasci che il tributo le arrivi ugualmente, alzi la cornetta e ci inviti a quel party. Costello allora ci ha pensato, ci presta la chitarra per qualche ritornello. Mister Costello non ci vuole come figli, non vuol darci dei consigli, non va bene questo e quello, ma per noi è un modello. Mister Costello, certo sappiamo dell'altro Elvis, noto e venerato da tutta la gente, ma lasci che il tributo le arrivi ugualmente, alzi la cornetta e saremo sui figli. Certo sappiamo dell'altro Elvis, noto e venerato da tutta la gente, ma lasci che il tributo le arrivi ugualmente, alzi la cornetta e saremo sui figli, alzi la cornetta e saremo sui figli. Radio Rock Wave, l'onda del rock. Eccoci qua, il cinema volta Rock Wave. Stasera un pezzo molto divertente, molto accattivante, questo omaggio a Elvis Costello da parte vostra, che non è un pezzo di Elvis Costello, ma un pezzo assolutamente vostro. Assolutamente. Bene, parlavamo a microfoni spenti del vostro amore per la Francia e dell'amore di francesi per voi musicalmente parlando. Com'è nato questo discorso? Ma in realtà sì, è nato grazie a un tizio che storpiava questo pezzo, citando il ritornello, lo cantava con fate quel pezzo, chitarra ritornello. Quindi per lui il titolo di Elvis Costello era così. Di Mister Costello era questo. No, e questo tizio che è un nostro amico ormai, si chiama Vincenzo Cirillo, vive in Francia, l'abbiamo conosciuto in Toscana, lui in realtà è diciamo mezzo toscano, mezzo francese, e vive nella zona della Borgogna. L'abbiamo conosciuto per caso appunto in un festival toscano e abbiamo iniziato a frequentare la Francia perché ci ha tirato dentro una serie di festival che organizza lì, e da lì non ci siamo più fermati perché poi abbiamo iniziato a girare un po' per la Francia. Poi siamo stati anche a Parigi. Bene. Al Centro Culturale Italiano. Abbiamo suonato più volte alla Festa della Musica, che è una cosa meravigliosa, spettacolare, il 21 di giugno ogni anno. E quindi abbiamo iniziato a frequentare seriamente la Francia. Tra l'altro il mese scorso sono stati due volte in Francia con due mini tour. E sempre sono esperienze molto importanti, molto colorite, mettiamola così. E il pubblico francese che... E il pubblico francese è strepitoso, perché intanto non si lamenta. Non si lamenta e... Alberto sta facendo qualcosa, non capisco. Sì, si sta riferendo... alle lamentele del pubblico francese che non esiste. No, al contrario. Contrario. Lui stava... Quindi avete fatto due... Adesso la dici? No, adesso vieni qua e fai ridere tutti. No, perché... Ok, mi dicevi anche che suonate a mezzogiorno in Francia. Sì, sì, cioè là si suona spesso nei ristoranti e la gente non si lamenta, anzi, al contrario, è molto contenta. E... Avevi detto hai fatto due tournée di recente, due date di recente. Sì, no, due mini tournée, perché quando si va lì ovviamente si cerca di ottimizzare. Certo. E vabbè, l'ultima volta è stata particolarmente impegnativa perché sono stati due giorni molto intensi, però per chi se li ricorda, ecco, mettiamola così. Perché c'è qualcuno che si è dimenticato. No, diciamo tutti, che... tutti completamente. Ci hanno lavato il cervello. Sappiamo che siamo andati in Francia, ma non ci alla infatti, alla frontiera ci hanno lavato il cervello. È arrivato il gendarme con l'auto. Questa è un'altra autocitazione. Ecco. No, infatti, è la fine. Se iniziamo a raccontare queste cose, non ne usciamo vivi. Ma perché non ride nessuno? Noi ridiamo come dei matti e la gente non ride più. Bene. Ma sono tutte cose non sconce, giuro. Assolutamente. Però. Talmente dementi che non riusciamo. Quindi in Francia noi. Molto positivo, il pubblico francese una buona risposta, cioè. Sì, e tra l'altro possiamo cantare in italiano, che è una cosa positiva. Quindi questo è il messaggio alle band italiane: andate in Francia dopo che ci siamo andati noi, così non ci rubate i posti, però cantate in italiano, perché là amano l'italiano, grazie a Paolo Conte, grazie a Gian Maria Testa, che là è conosciutissimo, grazie anche a Cocciante, sì, esatto, dirlo. Motore Dan de Paris, e anche a Tozzi, che non sono io, a Ramazzotti, che non sono io, che non sono io. Fornaciari, che Fornaciari. Sono io. No, ed è molto interessante poter cantare in italiano senza insomma usare un'altra lingua e vedere che effetto fa. Poi vabbè, ogni tanto qualche battuta in francese bisogna farla. Ti devo dire una cosa, questa è la Francia, poi avete fatto altri stati, chiaramente non l'Italia, oltre alla Francia. Abbiamo fatto la Svizzera. Una data. No, in realtà la Francia è l'unica nazione che ci vuole. Infatti vogliamo fare un po' di esperimenti. In Germania temiamo serva un po' di più cioè crediamo che apprezzino un po' di più la lingua inglese in realtà, e poco l'italiano. Poi in realtà siamo molto versatili, insomma, siamo un po' così. Io ti faccio questa, ti dico una cosa. Recentemente è venuta qui una band che ha suonato in Germania, è stata invitata a un festival tedesco. Allora, fino alle 8:59, gran confusione, birra, eccetera. Alle 9 precise, quando hanno cominciato a suonare loro in italiano, per 40 minuti, quasi un'ora, tutti i tedeschi sono stati zitti, assolutamente zitti, e hanno ascoltato le parole italiano di questa band italiana, veneziana, cioè del Veneto praticamente. E loro sono rimasti a bocca aperta nel dire, hanno apprezzato, cioè non hanno cominciato a fischiare, sono stati zitti per un'ora, hanno sentito la musica di questa band italiana. Ma forse siamo talmente male abituati al nostro pubblico maleducato e indisciplinato, ma non perché parlano durante, noi siamo contenti quando la gente parla sotto i nostri brani. Non tutti, magari se fai, ne so, esilio, ti piace che in quel momento magari ci sia un po' di silenzio, ma perché siamo tutti emozionati, quindi vorremmo che fossero emozionati anche loro. Però poi per il resto è bello che ci sia anche sotto un po' insomma, così, di rumore di piatti come nei dischi di Bill Evans. Però non è tanto quello, è proprio il rispetto mentalità nei confronti del musicista. Sì, è un'altra mentalità che in Italia forse non si riesce a capire. In Francia, quando ti vedono con uno strumento addosso, ti chiamano il signor musicista, ti chiamano Monsieur le Musicien. Certo. In Italia ti chiedono, ma cosa che vuoi fare da grande? Esatto, che lavoro fai, musicista? Sì, ma dopo, cioè cosa che fai per... E purtroppo ti devi adeguare, perché... Adesso sono le 23:37, io propongo una cosa, se siete d'accordo. Mettiamo su un altro pezzo da disco, sentiamo la traccia per Michele, così la riesce a prenderla immediatamente. Aspetta però che devo fare i conti. Se fai i conti, perché purtroppo una cosa che ho detto spesso ai... Ecco, perché perché so che sono 13, parto dal basso. Ma sono furbo. Errori. Chiedi a Stefano, che lui Stefano fare secondo cose. Me è la 10, ma esatto. Sono abbastanza sicuro. La traccia che vuoi mettere su Andrea. Allora, noi abbiamo dei grossi problemi di comunicazione tra noi, è per questo che ci portiamo. È per questo che abbiamo un ufficio stampa. Esatto. Uno. La traccia numero 10. Confermo la 10. Perché una cosa vi devo chiedere, ma perché non ci mettete i numeretti sulle tracce? Perché è più figo così. Ah, sì, è più figo. Non so se i registi che mandano i pezzi siano molto contenti. No, perché... Ma l'abbiamo fatto per i registi, così sono costretti a ascoltarsi tutti i pezzi. Ah, questo è vero, sì. O a non mettere per ma nulla. No, ma perché in realtà è un brano solo che si intitola così. Questa l'abbiamo capita in due. Però, e non siamo noi. Beh, citiamo il pezzo, il titolo del pezzo. Il 10. Ovatta. Ovatta. Sentiamo la traccia numero 10, ok. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Ok, abbiamo citato la traccia, abbiamo sentito la traccia numero 10 che si chiama, che si intitola Ovatta. Perfetto, anche questa è una traccia molto dentro al blues, molto dentro al blues, assolutamente dentro al blues. È una bella cosa, secondo me, non è mica una cosa negativa. Sì, non è che ci vergogniamo. Appunto. Ah, tra l'altro, dimmi. Una cosa che abbiamo sperimentato è che veramente, malgrado tutto, malgrado quello che dicano, che il blues, ma sì, che palle, sono quei tre accordi, ovunque lo si fa, la gente improvvisamente sta bene. Vedi. Ha veramente ragione B.B. King quando lo dice nelle sue canzoni. Poi alla fine... giovane al vecchio. Sì, sì, ma chiunque, ma perché quella struttura armonica entra dentro le orecchie di chiunque, ormai ce l'ha dentro. Certo, certo. Ed è una cosa che aiuta tanto, soprattutto in certi momenti in cui c'è il calo dell'attenzione, fai un blues e... Proprio di calo di attenzione, salutiamo la Nicoletta, la Patrizia e la Silvia, che ci stanno ascoltando. Sono che tre rocchettare, tre donne contemporaneamente, peraltro. Sì, sì. Sì, 13. Perfetto. Sono tre rocchettare? Come? Sì, tre rocchettare. Chiamano rock. Ah, ok. Nel senso positivo. Certo, no, avevo capito. E ritornando al discorso del blues, dal blues è nato tutto, è nato anche il rock. Anche se, cioè, il rock è nato con Elvis, va bene. Che faceva del blues anche Elvis? Sì, poco sì, da fare. Ha preso il blues dei neri e l'ha reso il blues dei bianchi. Sì, sì, sì. No, era una, quello è... Quindi è una cosa... decisamente importante. Sì, sì. E quest'anno invece il blues, abbiamo citato il blues, però abbiamo citato, abbiamo detto anche ci sono delle canzoni nell'album, nel vostro album, che è una base di pop, quello sì. No, pesante, ma fatta. Ma non vergogniamoci, dobbiamo vergognare di fare il pop, assolutamente. Il blues è pop, non so come dire, sì, ma cioè la musica della comunicazione totale. Esatto, cioè pop significa popolare. Esattamente, da esattamente. Lì, quindi è tutto popolare, anche i Radiohead sono pop, lo sai, adesso tutti i Radiohead sono alternative. No, cioè, diciamo nel momento in cui arriva alle masse una cosa è pop. Ma ok, quindi... Computer è un album assolutamente pop. Esatto, nel momento in cui diventa l'immaginario di una popolazione è inevitabilmente un disco pop. Esattamente. L'avevano già intuito gli U2 quando hanno parlato di Pop Mart e tutto. Certamente. Però non so cosa stessi dire, ma era così. Stavamo parlando del pop come popolare. Ah sì, no, dicevo, quindi ci sono molti nostri brani che hanno questo andamento. Sì, sì, sì, comunque hanno questa atmosfera pop, ma perché appunto pop non è una parola. E poi ci sono delle atmosfere in cui esiste, cioè viene fuori la melodia nei vostri pezzi, sicuramente. Sì, questo ci fa piacere perché... Recentemente una signora che studia pianoforte con il maestro Andrea Ponzoni, con maestro Andrea, ha detto che invece detto? Era tutto sbagliato, che non c'era la melodia e poi era tutto... T'ha accusato di non essere... Sì, no, sì, secondo me bisogna a questo punto rendere omaggio al nostro compositore Max per la sua vena compositiva unica, secondo me. Io Omaggiamolo. Che Max scrive tutti i pezzi? Sì. Sì, okay. Sì, lui è il compositore dei nostri pezzi, poi noi... arrangiamo. Sono basito. No, non devi essere basito, è la verità. Mi debasisco. Debasisci. Ma tra l'altro mi chiedevano le nostre amiche Nicoletta, Patrizia e Silvia, se volessero acquistare il disco 13 dei Cinema Volta, come dovrebbero prodotto fare? Dall'etichetta Silent Groove di Verona, con la collaborazione dell'editore Rudy Tanzi Shinseiki, nonché distribuito da Audioclub, dove lo trova? Allora, le possibilità sono tre. Dici. Solo una è vera, però. No, sì, questa battuta è fantastica, ma la prima è in un negozio di dischi, non a caso ho usato questo dito, ma e forse non è quella proprio vera. Però si può andare a ordinare e forse ti arriva il disco di un altro, ma questo è vero, altro, e questo infatti. È vero, può capitare. Sì, perché c'è un problema sul codice a barre, ma non fa niente. Risolveremo nel 2014. Però c'è una certa Jocelyn... che non ricordo il cognome, che è improvvisamente diventata ricca ultimamente. Infatti, perché vende un sacco di dischi dei Cinema Volta. Perfetto. Convinto. E la terza possibilità. No, la seconda possibilità è andare su internet e trovarlo ovunque. Perché... Citiamo il sito, dai. No, sì, sì, ma anche sui portali che vendono dischi, quindi quello della iTunes, mela, quello, ecco, poi tutti, insomma, tutti quanti. Nokia, diciamo tutti i marchi. Tutti, ma infatti. No, comunque basta andare sul nostro sito e ci sono i link per tutti i posti in cui si può andare a acquistare. Ma la terza è quella da perseguire. La terza. Chi ha il coraggio di dirla? Ad esempio, sabato, venendo a sentire Cinema Volta a Desenzano in Castello. Domenica, venendo a sentire Cinema Volta a Verona. O il 15 luglio a Merate, che non so dove sia, ma in provincia di Lecco. Ma esiste? Merate esiste? Sì, sì, me l'ha detto il mio amico Mattia Brunelli. Ok. Subito dopo il concerto puoi acquistare il disco. E noi rilasciamo scontrini. Come andare dal salumiere ti fa assaggiare un po' di prosciutto con, e tu dici con tutti anche i dischi vecchi. Buono. Peraltro abbiamo anche dei dischi vecchi e questa è la notizia che volevo dare ai miei amici. Abbiamo 80 copie, dico 80 copie di Smetti di essere felice. Poi vabbè, Weekend Volo, mi sa di no perché è finito, ma proveremo a ristamparlo in qualche modo. Poi abbiamo ancora qualche copia di Guerra Fredda. Sì, sì. Che ne ho un 20 forse. Ecco, questo è per darvi un'idea di quanto vendiamo effettivamente. No, ma non è uno scherzo, cioè, no, grazie a Dio sono andato. Invece abbiamo un sacco di copie di 13, quindi cerchiamo di comprare quello. Il disco è uscito quello, cioè, adesso va bene il passato, insomma. Siamo al presente. Però volevo anche aggiungere che abbiamo delle ottime magliette nuove che lo Stefano qui, guarda, cioè, se venite veramente sabato trovate e lui è lo stilista lui è lo stilista, io le indosso tutte, poi tutte è finito il concerto, le vendo, me le tolgo perché sudate valgono di più, valgono di più, esattamente. Okay. L'ultima vale di più, 23,50. Quello che vale molto di più anche, oltre alle magliette, è suonare dal vivo. Cosa suonate adesso? Quante ne abbiamo ancora? Abbiamo ancora circa 12 minuti, quindi due pezzi sicuramente riuscite a fare. Facciamo un pezzo dedicato alle nostre amiche rocchettare. Sì, benissimo, cioè, a Nicoletta, Patrizia e Silvia. Con amore dai con Cinema amore Volta. Dei Cinema Volta. Okay. Non dire senza niente. Cosa? Senza pezzo, senza niente. Allora, abbiamo Max... colto impreparato anche il regista con questo finale che salutiamo, inquietante. Salutiamo. No, ma nel senso che è talmente siamo fatti così noi per i finali così che tronchi. Sì. Siamo... bello fare un finale tronco di un pezzo storico. Sì. Ah, beh, sì. Quello sì. Allora, Max Tozzi, voce chitarra. Esattamente. Stefano Fornasari, basso. Francesco Venturini alla tromba. Sì. Andrea Ponzoni alla tastiera stasera. Yes. Oggi anche al pianoforte qualche volta. Yes. Yes. E il nostro Alberto Bonomo alla batteria, in fondo ma sempre presente. Sì, grazie. E Mattia alla camera. Alla camera. Alla camera, alle fotografie. Una bella macchina fotografica, vero Mattia? Ok, bello questa rivisitazione vostra, assolutamente vostra, di un classico, ormai è diventato un classico, sì, questo sì, pezzo sì. Di Nirvana, assolutamente. Sì, è una funkizzazione, ma tra l'altro siamo un po' avvezzi a queste funkizzazioni, perché in realtà abbiamo appena funkizzato... È Stefano che porta il funky, no? No, in realtà l'ha portato... Cicco. Ma secondo me invece l'ha portato Bonomo. Cosa dici? Ma guarda, secondo me in realtà, cioè, forse l'ha portato... Ma Mattia. Forse mi sbaglio, ma tu non suoni anche sovente con un gruppo che fa? Sì, a volte. Stiamo entrando come al solito nella fase ci capiamo solo noi, quindi usciamo da questa fase. Parliamo seriamente. Abbiamo appena funkizzato un brano, però si può dire? Sì. Si può dire. Mm. Abbiamo appena funkizzato un brano dei Doors in una compilation, si intitola Moonlight Drive, e ti assicuro che va da un'altra parte proprio. Bene che sia così. Abbiamo portato in città un pezzo che era, diciamo, in spiaggia. Mm. E noi l'abbiamo portato nella città, l'abbiamo portato a New York, dove bello. Ci sono un po' negli anni 70. Vi posso chiedere una cosa, velocemente, poi fate il pezzo che volete alla fine. Un refrain di qualche minuto del pezzo che ho messo su per un mese consecutivo, ce la fate a fare? Certo. Migliore errore. Un però refrain. Come lo facciamo? Come volete voi, a vostro piacimento. Perché avevamo una versione. No, ma facciamola dai. Tu. Quello che volete. Come una nuova parola, da poco appena imparata, sembra che tu sia ovunque, ovunque rimbalza il tuo nome, tende da cinema rosse, cancellano tutte le cose, non bastano le parole, mentre ti fanno domande, c'è una canzone di Conte che parla dell'amore. Spiega alla gente che amare rima con errore, ma tu sei il mio migliore errore. Tu sei il mio migliore errore. Dove sarai tra vent'anni? Di noi cosa racconterai? Solo un periodo sbagliato, una fase di passaggio. Forse il mio racconto nel ricordo imperfetto da te sarà corretto, seduta lì al mio fianco, perché tu sei il mio migliore errore. Il mio migliore errore. Tu sei il mio migliore. è mezzanotte e 0 minuti. Blu Radio. Rock Wave. L'onda del rock. Eh sì, abbiamo finito questa cavalcata bellissima. A me sono stato molto contento perché avete citato il pezzo che ho amato per un mese, musicalmente parlando, da parte vostra. Grazie, ero per un mese è andato in onda. Non la facciamo quasi mai, quindi ci ha fatto piacere farla. A me è piaciuto molto perché è una melodia che entra immediatamente. È una melodia, non so se voi parlavate di un singolo, può darsi che fosse stato anche un singolo, però era un pezzo che accattivante, fatto bene, musicalmente una ballata pop che entrava subito in testa. Grazie. E quindi ho scelto questo pezzo e per un mese è andato in onda da parte vostra. E poi sceglieremo altri pezzi dall'album, però era significativo. Questo. Terminiamo con un altro pezzo, questo è il singolo vostro, vero? Sì. No, pensavo di chiudere con il pezzo. No, abbiamo promesso una versione country. Faremo una versione country di Deep. Very Important Photographer. Grazie Cinema Volta di essere venuti qua stasera. Grazie a te. Grazie a Michele Pujon, grazie a Michele, ci ha dato una mano indispensabile in regia. E ci sentiamo la prossima settimana con Rockaway. Domani ci sarà un'altra trasmissione, è festa domani, ma Rockaway continua. Ci sarà una musicista di Bologna che farà un live dalle ore 21 con Agostino Spolauri. Grazie Cinema Volta e terminiamo con VIP. Bye bye, buonanotte a tutti. Cittadino privato del destino, scatto e seguo scatto, diaframma aperto poco, fermo, lo sparo, ferro, un cano. Non tocco mai il vero. Facendo molto male, vendetta personale o scontro sociale, paparazzo, sembro pazzo, io piazzo, io buon senso. Non mi giudicare, io sto facendo per te, per te. Non mi piaci mai, io non sto spiegando perché, perché. Custode di morale, schiavo del guardare, vittima carnefice insieme sul giornale. Capo stato nel peccato, io confisco il segreto. Non mi giudicare, io sto facendo per te, per te. Non mi biasimare, io lo sto facendo per te, per te. Non mi giudicare, io ti sto spiegando perché, perché. Non mi biasimare, io lo sto facendo per te, per te. Alla batteria Alberto Bonomo. Che finalone. Blu Radio Veneto.